radio com'è? Viruscio, segnale 930 radio Super 5. Sì, ma dico, si sente che è amplificato il microfono oppure non spinge tanto, dai. No, no, c'è la preamplificazione, va benissimo. E qui tutta a manetta, c'è l'amplificazione e il microfono, quindi me l'aveva fatto regolare Claudio, non l'ho più toccato. Il microfono è quello che stai utilizzando, un MV3. No, è uno Shure. No, va benissimo, ti ascolto bene qua, non problema. Io ho sempre usato questo, ce l'ho quasi 40 anni, dai, insieme all'apparato l'ho preso. Anzi, prima era collegato, c'era una camera eco, adesso si è bruciata, che era anche amplificata, quindi era ancora più forte la radio, mi ricordo che usciva veramente bene. Adesso è solo l'amplificazione del mic, dai. No, va benissimo, ti ascolto bene qua, non c'è problema. Vabbè, questo microfono lo dovevo sempre regolare, capito? Perché era troppo barattoloso. Leggermente ci siete, però ripeto, devi essere proprio pignolo, E adesso lo metto appena di preamplificazione, ma lo lascio così che va meglio. Perché sennò qui ribomba troppo ed è un casino. Sì, come era poco fa, guarda, andava bene. Perdi leggermente di forza, però intanto è tutto brutto. Io preferisco leggermente più bassa, però chiara. Infatti adesso c'ha appena di eco, gli ho dato di preamplificazione in più, praticamente ho messo il Mickey a 2, tutto lì, adesso lascio così, dai, già va bene. Come distanza, come sei, quanto pari lontano? 10 centimetri dal mic, va bene così non va in crisi la capsula. Io adesso sono una trentina, dai, 30-40 centimetri. Poi qua ce l'ho fatto, ripeto, quello spezzone lì, perché lo posso utilizzare in due radio diverse, capito? Beh, l'hai fatto, diciamo, con i fili invertiti. Io, mi piacerebbe farlo, ma mi sa che me li ordino altri due spinozzi. Un pezzo di cavo e mi faccio una prolunga per utilizzarlo con valvolare, perché c'è un valvolare vecchio e ho la curiosità di provare questo Shure come esce con valvolare, che mi ha detto che sicuramente esce bene. In questo parli dello spezzone, io addirittura gli ho fatto lo spezzone e diciamo che va benissimo. Perché l'attacco è uguale a sempre a 4 poli, però non va bene, c'è qualche filo invertito, c'è sicuramente. A parità di spinotto cambia, non so perché. Sono apparati, marche diverse, anni diversi, questo sarà degli anni 60, 70, Ogni apparecchio ha le sue connessioni diverse, capito? Sì, non è standard, purtroppo. Pazienza, dai, chissà se riuscirò a provarlo un giorno. Questo è un Gemtronic, un 40 canali, GTX 5000, della Gemtronics. Ce lo stavano buttando insieme all'aspirapolvere, vendendo insieme all'aspirapolvere, me l'ho fatto dare solo quello, gli ho detto dammi solo il baracchino. Che il microfono non è il suo, il microfono è della Pace. Ma già va bene, ti ascolto benissimo. Questa è quella radietto piccolina con l'MV4. No, va bene, sempre bene arrivi qua. No, quello che sto usando io è un Samurai, ripeto, stavo parlando del Gemtronics, quel valvolare che ho preso qualche anno fa. Bello quello lì, è la bella radio. Io ci avrei quel Constant, valvolare l'ho venduto, me ne sono pentito. Sì, che quando commuti c'è un relè dentro che si da due cavalli, si sente tum. Già quando lo accendi il colpo dell'alimentatore si sente che la botta quando lo accendi. E da sistemare un po', ma la mascherina è un po' zandata, qualche pasticcio già hanno fatto sopra, qualche graffietto. E poi cosa c'è da fare? È un po'. C'è una specie di clarifer anche per la centratura e devo usarlo tutto spostato a un lato, quindi sarebbe da mettere in ordine anche a livello di centratura. Dai. Ora, ricordiamo un po'. Ora, perfetto. Controlliamo anche le stazionarie. Bassissime, dai. Claudio, ci sei? Sì, un attimino, facciamo così. Via. Mi sono allontanato a prendere il caffè. C'è qualcuno sul canale 4? Come si chiama? Luca Flipper? Io non lo so. Io ho fatto una spazzolata, ho trovato gente sul canale 4. Lo stanno frequentando da un po' questo canale. Canale 4. Sul canale 4. Si è andato a vedere? Sì, sta facendo delle prove sicuramente. Anche lui deve essere vicino a me, boh, arriva forte anche Luca. Due passi da te. Sì, infatti, vabbè, un canale a fianco un po' al centro, Allora, questo apparecchio che ho, questo Midland piccolo qua, questo da 40 canali, che non c'ha neanche l'FM, non prende neanche colpi, niente. Sì, no, anche questi sono ottimi apparecchi, Samurai, Galaxy, sono abbastanza selettivi, anche se arrivano forti, sì, un canale, ma c'è soggetti che arrivano forti e non disturbano, quelli che disturbano vuol dire che hanno qualche problemino magari di spurie, qualcosa, o usano lineari, roba così, che escono un po' male. Allora, praticamente, io c'avevo il 48 e l'ho venduto, prendeva tanti di quei colpi che non faceva neanche a tenerlo qua. Io uno dei peggiori, come si chiamava? LAM International, mamma mia, multimode 3, cazzo, un cesso di canali quanti ne volevi, però sono lì a fianco, cioè a fianco, dovevi parlare per forza con quella persona lì che era vicino a te, sennò gli altri non li sentivi. Ce l'ho buttato anche io, l'ho buttato via, tutta mondetta prendevo. L'ho venduto subito, alle punti mi, l'ho venduto subito, dai. Non servono a niente, ma neanche il 48. Nero, mascherina nera, aveva tanti canali però, poco selettivo, le cose buone, che poi non è che costasse poco neanche quello, forse meno di questi Samurai, questi diciamo che all'epoca costassero sulle 350.000 lire, boh. E questo avevo preso i soldi, io c'avevo anche il multimode 2, il multimode 3. Il 3 ho avuto io, il 3, il 2 non lo so, ma era uguale come a prendere colpi. Sì, sì, venduti anche quello, poi ho avuto il Sommercamp. Io ho iniziato con dei portatilini, era un canale e poi gli ho messo due quarti, l'ho fatto diventare tre canali, perché c'era già lo slot per due canali. E non mi ricordo che canali avevo, l'11 avevo messo il 23 e forse aveva il 5, non mi ricordo, comunque aveva tre canali. E poi ho preso il Pace 8030, anche quello usciva veramente bene. Avevo un Turner più MB, no, Turner più 2, non mi ricordo la sigla, MB più 2, la Palma però Ah sì sì, l'ho conosciuto, ce l'avevo anche io quello lì. Sì, il Pace l'ho avuto anche io, l'ho venduto anche quello, poi c'aveva il Sommercamp, il Tocca 524, 504, portatile, e ne ho girato a parecchio. Poi per la concessione invece avevo preso un Irradio MC700S, un 34 canali, ho logato, ma giusto per la concessione mi basta, poi era sempre parcheggiato. La concessione c'avevo Intec 500SX. In radio, ma mi sembra che fosse proprio lo faceva la Intec, se non sbaglio. 500S ne ho regalato uno da poco, che ce l'avevo qua, intanto non lo stavo utilizzando, l'ho dato a un amico. E mi ha tenuto il 48, l'ho venduto, adesso mi è rimasto questo Midland, piccolo, un altro Midland che c'ho in macchina, e basta. Ehi, la voglia. Poi le altre non me le ricordo. Ah sì, forse un Inuit, può essere uno piccolo Inuit, se non vado male, se non mi ricordo male, 40 canali, anche quello ce l'avevo in macchina. Io c'avevo Inuit 40 e l'Inuit 23. 40 era, con i numeri rossi, se non sbaglio. E quello, con quello lì pilotavo il Mi 150. Capo, mi sa che non lo fanno più neanche il Mi 150. Io ce l'ho, ma è un bel vecchio, Il mio c'era bruciato, se non sbaglio, l'avevo prestato ma l'avevano bruciato, sicuramente erano carichi stazionari, l'avevano bruciato più finale, sicuramente si era fatto tutto. È un bel compromesso, non era fortissimo, però quella, un'ottantina di watt te ne dava, mi sa. Il finale di quello del Mi 150 costa 34 euro. Ma non so, penso che mio padre ci aveva buttato tutto, in campagna. C'era anche un Jumbo Aristocrat. C'erano le valve da cambiare, stai rampando tutto. Il Jumbo, catapochisci a volte, ce l'ho avuto anche quello. Adesso c'è un piccolo, lo Speedy, questo ce l'ho ancora qua, con una valvola solo, credo che abbia solo una valvola, questo in base, ci riguardo. 80 watt da quello lì. Sì, ma un aiutino te lo dà, ma no, è fermo, non lo so più utilizzare, ogni tanto lo attacco, ma giusto per farlo scaldare un po'. Facciamo roba di corrente, questi amplificatori valvolari, per carità. No, infatti uso sempre il 507, come si chiama? Il transistor. Non devi accordare né niente. 507 quanti è? 100 watt, come il 746? No, io penso che sia oltre 200, 200 o 300. Io ne ho uno qua, il B300, però è della CTA International, con finale a Mostert. Non so questo come sia, l'altro giorno l'ho aperto, l'ho un po' spolverato, ho un po' ingrassato la ventola del freddamento e adesso è più silenzioso, si sente molto meglio, perché stava diventando un po' troppo, che è un casino, perché è tutta messa al contrario, è un macello arrivare con a metterci un po' un filo d'olio, dai. È un casino, sì. No, anche questo è commutato. Però vanno bene. Qua mi segna, per esempio, 250 con picchi a 400, ma no, lo strumento non è affidabile. E l'antenna te lo tiene? L'antenna è quella costruita in RG58 e con il condensatore da RG213, a fattore di impedenza. Ah, io ho capito, sì. L'avevo costruita pure io, una di quelle, l'ho regalata. E io questa, prima avevo una boomerang, ma ho cambiato la giorno alla notte. Figurati, da Giulia arrivavo, mi sembra, una roba di 3 o 5 di segnale. Con questa arrivo 9 a parità di posto, tolta una e messa l'altra. 9 e 5 mi sembra, 9 e 10. Io c'ho la Master anche qua da piazzare. Quella sarebbe bella provarla, la Game Master. La parità di posto, vedere se guadagna. Quella c'è forte come antenna. Io la vado a provare in campagna, ma a questo tempo non posso fare niente. E adesso, soprattutto anche la prossima settimana, lunedì, martedì, mercoledì è brutto. Se ne parlerà a fine settimana. E domani è stato brutto, sino a domenica brutto, poi lunedì non si sa se piove, se non piove, brutto. Aspetta che guarda, vedi cosa là. A me stava segnando tempo brutto sino a domenica. Avanti, Brecco. Io ti ascolto molto male, ho capito, saluto a tutti, però non ho capito chi è. Vediamo un po' che qualcuno che ha l'antenna sul tetto ti ascolta meglio. Va. Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato, 595 quasi. Ciao Franco, buonasera. Adesso va bene, cosa hai fatto? Aiutato. Adesso sei arrivato, insomma, ma rispetto a me, la colpa è la mia, non è la tua, sono io che non ho antenna sul tetto. Però adesso ti ascolto bene, diciamo. Allora va bene, dai, piove da quelle parti? Non lo so, io ho chiuso anche la finestra perché stava bagnando i vetri, quindi non ti so dire. Piove, Giova, qua, piove. Tempo da lupi, Stamattina, certo, questa puttana, e anche ieri, E anche tutta la settimana, pioggia, non ti preoccupare, tranquillo. Non ce n'è. Allora, il sole arriva mercoledì, quindi fino a mercoledì prossimo dobbiamo accontentarci della pioggia. Vabbè, e che ci vuoi fare? Boh. Già ci vuole, dai. Almeno passa la motozappa in campo, ha tagliato l'erba, quando ieri, sì. Ieri ho battito, guarda, me la metto. Ma era più alta di me, era 1,80, 1,90 l'erba. L'ho tagliata a tre strati, buffo. Io l'ho tagliata e sta ricrescendo di nuovo. Che casino qua, per carità. No, ma adesso non gli do tempo di crescere, adesso l'ho tagliata proprio per non trovarla in mezzo alle zappette, sennò mucchia. Così invece già, una volta che è spezzata, ci passi sopra, la macina tutto e via. Avanti, Giova. È la prima passata come gli hai dato, la moto zappa o adesso il spugliatore? No, no, l'ho tagliata ieri tutta col decespugliatore, l'ho fatta in polvere. Adesso gli passo, adesso questa pioggia ammorbidisce la terra perché era già secca. E poi gli passo la fresa, un paio di giri, un paio di volte, dai, un paio di passate. Già ti viene un bel lavoro, quindi se fare troppo alta devi abbassare così il spugliatore. Sì, è diventato la mucchia davanti, sotto la fresa c'è quella specie di regolatore di profondità, quindi ogni tanto devi sollevarla, togliere tutto, tanto vale, sacrifico un giorno prima e la fai in polvere, in concime la fai. Io l'ho passato l'altro giorno, però come stavate dicendo, con queste pietre torna a crescere, ma era un pezzo piccolo il mio. Ma non gli do tempo adesso, appena posso passargli la fresa gliela passo, almeno lavora meglio la moto del motocoltivatore, senza polvere, un po' umida, appena è nella tempra giusta gliela passo. Speriamo che basti per quest'anno tagliare, perché è la terza volta che la taglio. No, io gli ho fatto solo una passata, però l'ho fatta a zero, ma adesso magari ho un'altra passatina. Quest'anno è così, avanti Franco. Franco si è perso. No, stavo commutando. Troppi ne hai. Ogni tanto commuto con una o con l'altra, capito? Anche questa è forte, da combattimento. Un secondo, vabbè, questa è una radio così così, dai, diciamo. No, guarda, ho dovuto abbassare il volume. Va bene, anche questa, quindi non c'è problema. Questa è un'altra radio e sto scendo liscio con i suoi watt, capito? E che microfono è? Questo è il suo microfono originale, tutto qua. Adesso scendo liscio. Guarda un po' adesso la differenza, 1, 2, 3, 4. 9,30, 9,40. Quella radio rimane buona. Sì, però questo mi piace molto, come radio, molto, molto forte. Va bene questa, sì. Giovanni, come mi ascolti lì a quelle perre? Perfetta, Gianfra, forte e chiaro, molto bella questa, potente e chiara, limpida, bella, pulita anche. E questo, Fra, il suo microfono originale, capito? Cavolo, non esce forte, ma anche qui hai smanettato i trimmer per aumentare la modulazione. No, negativo, questo è il Magnum, l'S9 che sto provando. Come si chiama? Il Cobra, Magnum. Ah, il Cobra qual è invece? Lo chiamano il Cobra. No, non ce l'ho quello lì. Ah, è proprio un altro. No, comunque il Magnum è forte. Poi mi piace anche come apparecchio. C'ha lo Smitter grande così, quello quadrato. Capa di positivo, poi c'ha anche il frequenzimetro, tutto lì. Bello, bello questo. E questo da quanto lo trovi, come prezzi? Non lo so, non ho idea cosa costa, ma penso che costi più di 400 adesso. Cavolo, non esce bene, esce forte, cavolo. Tu pensa che c'è il Nike normale. Adesso così, guarda, è senza eco, con la sua... Qui c'ha l'eco, guarda un po'. Ok, ti ascolti? Com'è? Guarda un po'. Sì, ha un effetto camera più che altro, è un effetto camera, però è bello. Poi c'ha così, cambio. Questo è proprio eco ripetitivo. Capa di positivo, poi fa. Adesso fa così. No, ripeto bene. Vabbè, adesso lo abbasso perché a me non mi piace l'eco, capito Fra? No, poi già sono come disordo, quindi ho difficoltà ad ascoltare a volte. Se poi l'eco è molto presente, ho difficoltà proprio a capire. A me piace lasciarlo così come va adesso. Tutto qua. Avanti Giovanni, tu dove sei? Platamona da sempre, sì. Sì, a stesso Fettine sono, più o meno, dai, sono sempre lì. Sei in stazione fissa o in macchina? No, stazione fissa sono. E poi l'antenna l'hai cambiata o cosa stai usando? Sì, l'antenna l'avevo cambiata, ho messo un assidio, una fibrocavi, voglio dire, GPS. E invece prima avevi? Ho pezzo di figlio, un lipolo. Ho capito, no? Comunque adesso ti ascolto, vai. Quanti ne stai usando adesso? Non ho capito, scusa. Quanti ne hai sotto di batte? Ah, penso che siano un centinaio, gli ho fatto due scatti. Per me, per ascoltarti qua ci vogliono, purtroppo, come sta dicendo Franco, la mia antenna non è sul tetto, quindi se non spingi un po', non riesco ad ascoltarli. Né Porto Torres, siamo la zona lì, tanto più o meno Platamona, Porto Torres, siamo lì, né Alghero, stavo dicendo, né Muro, se vai un po' tutto, man mano che ti allontani li perdo, perché purtroppo così, non è sul tetto. Prima o poi te la metterai sul tetto, non presumo. Non lo so. Purtroppo qua, vabbè, quando sei in condominio è un po' un problema. Ci vuole un palo tutto suo, lontana male dalle antenne TV. Capito? Problema ci sono. Poi non c'è uscita sul tetto, devi togliere le tegole. Tu sei sotto, giusto? No, sono al monte basso. Fatto qua mi arrivi benissimo comunque, forte, chiaro, molto forte, mi arrivi benissimo, nessun problema qua. Guarda adesso però, quanto scendo così. Io ti ho ascoltato lo stesso, basso di radio, forte di segnale, basso di radio, però ti ho capito lo stesso. Così sono con 4 watt, dai. Io ti ascolto lo stesso. Sì, tu puoi anche perché sei lì, zona tranquilla, non hai disturbi di come si dice, radioelettrici. Io qua la pompa di calore, cose varie, un minimo di QRM ce l'ho, quindi se non c'è silenzio, i segnali bassi non li ascolto. Però con l'aiutino vai alla grande. Mi guardate che ci sia la soluzione. Ci facciamo sentire, dai. Avanti, fra. Ah, ne hai da provare. Ma io sto provando questo. Adesso è attaccato, quant'è adesso? Questo è forte lo stesso, è tipo quello di poco fa, il Magnum. Ricordo usare macchina, 1, 2, 3, 4. E quanto devi chiedergli a cosa, mia, a distanza? E già va, guarda un po' questa radietto, questo è quello di usare macchina che gli ho adattato il preamplificato. A fondo scala c'è già fa, che a fondo scala. Vai tu. Quindi va bene, aspetta perché ero in seconda posizione. Aspetta che ti abbasso il segnale. Prova liscio prima che ti porto a 9. Adesso sto scendo liscio, con i suoi watt, 1, 2, 3. No, non parlare, tieni la portante ferma. Adesso sei 9, eh? Aggancia. Agganciato, arrivi quasi a 9.30, 9.20 e 27, 9.28. Quindi va bene. Io penso di sì. E vabbè, pochi watt questo qua, questo è un 300. Quando è agganciato c'è anche bei picchi di modulazione. Non si è agganciato, eh. No, quando hai sganciato. Così è normale, 1, 2, 3. Cioè, bei picchi di modulazione, molto, un po', quando agganci un po' li perdi. Perché magari va a mangiare un po' di radio. Però così sono molto forti i picchi, proprio da 9 vanno verso 9.30. Ecco, Giovanni, da te com'è? Sempre molto forte, già fra, molto forte. Quando sarà sempre, io sto scendo liscio. Giovanni, adesso hai aumentato il segnale, però hai perso la radio. Eccomi, ci sono. Così sei sceso a 3, però la radio è buona. Poco fa sei salito a 5, però la radio ha peggiorato parecchio. E io spegnete il baracchino. Voglio fare una prova dalla vettura, cazzo, che tanto che non la provo. Ti dispiace? Sì, siamo qua. Avanti già. Buonasera a todos, dai. Doppio run da questa parte, non so se mi avete riconosciuto. Avevo qualche dubbio, però. Ho tirato a indovinare, dai. Franco, non faccio più gli avanti, dai, avanti Franco. E ho detto che sto utilizzando l'MB più 4 su quel Midland piccolo. Va bene, metti quello là che hai detto, il microfono, quello spezzone, voglio sentirlo. Quale? L'MB3 c'è? Vediamo se Giovanni è andato in macchina. Giovanni? Ah già, questa è la M300. Con che radio è questo? Ma quella che hanno detto di adattarlo. Ma con che radio l'hai messo? Con quello 80 carati? Fatto di positivo. Una bomba è, fra, una bomba. Se tu li fai, l'attacco per il microfono a 4, sei a posto. Gli ho fatto uno spezzone. Per me sembra che stia quasi per innescare. Ma non c'entra nulla, se lo buono in macchina, come ti te ne esce, te lo sto dicendo, l'ho già successo a me. Vabbè, ma io adesso di questo qua gli ho fatto lo spezzone, capito? Stai fischiando adesso. E adesso guarda un po' Gianni. Un po' di innesco c'hai sotto. Forse perché ci sono le cuffie qua attaccate, è un casino. Avanti, breco. Chi sei, Giovanni? Ciao Giovanni, sei basso di radio per me. Confronta agli altri, sei proprio basso. Chi è questo ragazzo del Sacro Cuore? Io. Perché a Sacro Cuore abiti adesso? Sono a 50 metri a Sacro Cuore. Sono dietro praticamente, più in basso. Io però lo ascolto a malapena, è incomprensibile da parte mia, ma ripeto, sempre per colpa mia. Io abitavo proprio in piazza Sacro Cuore. Sì, già lo so, ma l'avevi detto. La chiesa era a sinistra tu. Cosa? Diciamo uscendo dalla chiesa, diciamo, verso l'esterno della chiesa, dal portone tu eri sulla sinistra? Allora tu se sei dove la numero 6, quel palazzo che fa angolo abitavo io all'ultimo piano. Perfetto, tu esci dalla chiesa, guardi a sinistra e tu eri lì. Esatto. Sì, ne avevamo già parlato. Va bene quel microfono. Dimmi fra. Detto che va bene quel microfono, solo devi usare a distanza, perché se ti metti le cuffie inneschi. No, per me è troppo, non lo so, preferisco le altre regolazioni che abbiamo fatto, ma quanto i microfoni, quello lo sento troppo, questa quasi per innescare sta. Forte è forte, però è medio alta la modulazione, la frequenza, dai. Questo è per me, per le mie orecchie, per la mia, perché io li ascolto con una cassa esterna, non so gli altri. Quel microfono che abbiamo regolato a schiena. Sì. Ma va bene adesso. Sì, bisogna tenerlo, non bisogna aumentare, capito? Non farlo amplificare troppo. Perché se amplifica troppo diventa un casino. Giovanni? Io ti ascolto, il segnale è zero, però la radio è 1-2, la ti posso dare, però ti ho ascoltato adesso, Io invece il contrario, lo sento più forte di segnale che di radio. Vabbè, tu sei aperto, la tua antenna lo vede magari. E cos'era? Un cilindro? Guarda, lo già adesso. Ah, basta. Che tratta? Stai innescando? Guarda un po', adesso. Stai innescando ancora? È regolato poco fa, guarda. Stai innescando ancora? Scusa, sono Poi sei molto apparecchi, tu fai le regolazioni, li metti coperti che ci ambadutto. E quello è il casino, A volte è strana. Grazie Claudio, è rientrato. Claudio? Negativo. Guarda che lo sto regolando, Abbassala con la radio, è troppo forte. Troppo forte. È a zero il bosso. È zitta. Adesso 1, 2, 3. Ogni affisco. Mi dice ancora? Adesso è solo fischio, sta peggiorando. Così com'è? Sempre peggio. È così? Ho migliorato un po', però sta ancora innescando. E adesso? Sempre. Così com'è? Sempre uguale? Sì, tieni la portante ferma. Sì, sì, c'è sempre l'innesco. Ancora innesco? Adesso non so se sia il tuo caso. Sì, io ho provato, come si chiama, quello l'M95. Mi stavo facendo uscire di testa, addirittura ho risaldato le connessioni. E cosa era? Quando usavo il lineare, mi rientrava nella frequenza del microfono e fischiava. Ho staccato il lineare e usciva perfetto. Io ce l'ho, non ho il lineare attaccato adesso. E infatti ti ho detto, il mio caso era così. Sempre fischiando sta. Sì. Aspetta, provo a abbassarlo. Adesso lo abbasso. Vediamo così. Sempre uguale. Mettilo dal minimo e aumentare, fra, se no non è capibili. Mettilo tutto al minimo e poi aumenta piano piano. Guarda un po'. Aspetta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, fischia lo stesso. Ma il microfono quant'è? La regolazione del microfono? Tutto l'innesco adesso. Controlla, ma chi viene il volume del microfono? Vabbè, va, sempre a flusso. Non parlare, metti la portante. Sì. Via, c'è ancora il fischio. Sempre. Avare su da terra, Franco. Ancora. Leggermente. Peggio che mai. Deve andare bene, 1, 2, 3, 4. No, innesca. Aspettate che c'è Giovanni chiamato. Avanti Giovanni. Prego. E aspetta, lo prego, dai, non è proprio un altro canale. Giovanni, avanti. Come la mano? Prova. Di radio sì, di radio sta scendo meglio. Un po' più forte, non tanto, ma un po' sì. Meglio. Vabbè. Ma mi sto usando il gas. Cappa, ciao Cla. Non già sto scendo bene. Vabbè. Questo è normale adesso. Questo è normale. È così agganciato dal suo interruttore. Senti che bella radio che c'ha. Sono sicuro che c'è un rumore forte sotto. Anche adesso no. C'hai alternato. Gli ho detto anch'io oggi, lui ha detto che era la ventola, anch'io ho dato quel parere lì, che fosse alternata. Ma non lo stavo facendo prima, cosa è successo? Non ho toccato niente io qua. Ho detto anch'io prima, ti ricordi qua, che ti ho detto che c'è, per essere pignoli c'è un po' di alternata. Alternata, non è alternata. Vabbè, sono vicino col microfono, ma non è alternata, è... Te l'ho spiegato che cos'è. È la ventola che è stata applicata dietro per raffreddare lo stadio finale, capito? Tutto qua. Abbassa pure la radio, buonasera a tutti. Comunque, abbassa un po' la radio, mi stai distorcendo qua. Cosa, Robè? Abbassare la radio, è troppo forte, stai distorcendo. Sto distorcendo perché siamo vicini noi, sto andando un 100 watt. Tocco il bombante, prova a abbassare un po' il Mickey Gain. No, Mickey Gain non devo toccare niente, posso abbassare leggermente la radio, microfono, tale più 3, adesso l'ho messo a metà. Adesso va molto meglio, se abbassi ancora un peluzzino è anche meglio. C'è dei picchi allucinanti, con la T250 mi sta dando 95 watt, così è con 95 watt e così è con 5 watt, c'è la differenza Gianni, così con 5 watt, così con 95 watt, cambia la radio. No, la radio è buona, se ti vediamo di buona, però il segnale già lo sai, non te lo posso dare con questa apparecchio che ti direi cazzato. Ah, è vero, scusami, ci metti il cazzo, vabbè, ottimo lavoro, va bene, così vabbè la lascio, vai, così è meno di metà la modulazione, la radio, il microfono. Come attacchi l'amplificatore? Sale tantissimo la radio, senza amplificatore è perfetta, come attacchi l'amplificatore te l'amplifica un bel la modulazione. Quello deve essere, se il lavoro è fatto bene, quello non c'è disaccordo, perché l'amplificatore all'interno è stato eliminato la scheda eco che non serve a un cazzo, messo lì con la ventoliera di raffreddamento a fianco, l'alimentazione è diretta dalla radio, 12 volts, cioè 13,8, e i cavi che appunto sono corti, sono da 10 cm, quindi non c'è dispersione, non c'è niente, non c'è disaccordo, quindi quando tu attacchi la radio deve aumentare, non te la deve saturare, capito? Assolutamente d'accordo, da quel punto di vista va bene, però tra l'altro pure troppo, quel rosio che c'avevi sotto è scomparso, forse stavi amplificando troppo, e sono sicuro se la bassi ancora un po' il luzzino va molto meglio. Guarda, così è meno di metà, meno di metà, però noi siamo vicini. Gianni, com'è la radio lì da te? A me, per me è perfetta, è bella forte e chiara. Kappa, è Franco Binario. Bene, bene, claro. Qui quando agganci aumenta tutto, segnale e modulazione. Ottimo, ottimo lavoro. E adesso che è abbassato sento meno anche quel ronzio di prima. C'è anche, ciao, comunque saluto Roberto, buonasera. C'è anche Giovanni da Patamo, dal terzo pettine. Vediamo se ci arriviamo al terzo pettine. Giovanni, mi ascolti, cambio. Ciao Claudio, buonasera, ben entrato. Forte e chiaro Claudio, benissimo. Bene, bene, anche tu, S9, Radio 5. Avanti Robert, fai girare. Sì, ciao Giovanni, io te l'ascolto molto bene. Qua arriva 9+15 Giovanni, molto molto forte. Ok, ma probabilmente c'ha qualcosa sotto, mi immagino. Chi c'era poi? Gianni, Mare, Franco, Claudio, chi c'era? Gianni, mi sono dimenticato qualcuno. Ciao Robert, io non ti ho manco salutato. Ehi, ma c'è qualche altro oltre a Giovanni, Claudio, Franco, Gianni, doppio room, c'è qualche altro? Sì, c'è Franco, come si chiama? California, se non ricordo male. E saluto anche a Franco. Vai Giovanni, vediamo un po' se mi ascolti. Ti saluto Roberto, ciao, ti ascolto forte e chiaro, sì, bene, ben sentito. Cappa, di nuovo la torre di controllo, vai qua. Cappa, va bene, no, era giusto una prova perché l'ho iniziato stamattina. Stavo facendo le prove con Cosio, con Franco Binario e Franco California, e vabbè, interessava fare le regolazioni complete, nel senso anche della radio, capite? Anche la radio devo mettere così, quindi tranne più 3 a metà, tranne più 3B a metà, e vabbè, c'ha dei picchi di modulazione allucinanti, anche da te Gianni, perché da Franco c'ha dei picchi abbastanza alti. Prova a vedere. Guarda a vedere mentre parlo se lo Smith rimane fermo o va molto avanti. No, da me è fisso. Perché siete troppo vicini, troppo forte. Io invece il segnale qui è più basso e quindi vedo gli spostamenti. Vabbè, quindi abbiamo il picchio positivo, la modulazione è chiara, buona, a posto, molto bene. Adesso ce lo vendiamo 500 euro. Avanti, Robert. 9 più 35 con i picchiari di età. Comunque, se interessa qualcuno, la Sanità la sta vincendo 1-0 e ha superato il Cagliari. Grazie, mi sa che ti chiamato allenatore, ci credi a fare gli assalti mortali. Oh, yeah. Cagliari Serie B, Cagliari Serie B, Nani Agio, Eddie, squadra di cadaveri, non ci riusciremo mai a rimanere in Serie A, assolutamente. Solo il tempo di Gigi Riva si chiama per Cagliari, allora si chiama Quarto Sant'Elena, KK, avanti Giovanni. Ma adesso sentivo già un po' il rumore invece, hai aumentato il segnale e riapparso quel rumore. Dora. Adesso lo chiudo. Beh, anche adesso. Ehi, ah. Che cazzo di appresso. Sono in quel cazzo di alimentatore. Oh, va. Aspetta. Adesso c'è quel rumore. Da parte mia sì. C'è sempre qua. Oh, Gianni. Ehi. Guarda un po' adesso se c'è sempre il fischio. Sta sempre fischiando. Sempre fischiando. E prima da cambiare c'è torta in Siria. Ma che rumore è questo? Aspetta un attimo. Adesso facciamo così. Vediamo un attimo. Ecco qua. Anche adesso c'è rumore. No, adesso no, ho perso due segnali, però due Santiago, però adesso è perfetta. Vabbè, quello di Santiago non è un problema, lo facciamo risalire subito, non è quello il problema, e quanto non sia quello. Avevo, perché ho l'altro alimentatore a fianco, l'ho spento, capito? Adesso va bene, hai preso un altro Santiago e la radio è rimasta buona e non si sentono ronzini strani. Vabbè, non deve fare ronzini, se no chi ha fatto lavoro mi cudi a terra. Quali ronzini devono essere? No, è colpa mia. Ecco qua, l'ho regolato. Va bene. Avanti a Chicchiocca, aspetta. Va bene, avanti a chi tocca. Giovanni, giù da Portamona, avanti a te. Yeah, un attimo di bianco, sto facendo cosa. Vai Gianni. E vabbè, comunque è un bel lavoro. Ecco, l'alimentazione l'ha presa da dentro, classico. Tutto dentro, no, non c'è niente fuori, non vedi niente, nulla. La radio adesso, anziché avere un connettore PL da pannello, ne ha tre, basta, dietro. E boh, interruttore, non ce n'è nulla. Si accende da dove c'è scritto off, ecco. Cancellato dove c'è scritto ecco, off, on. Ok, e quella è l'alimentazione, l'interruttore dell'amplificatore interno. Tolta la scheda ecco che non serve a niente, l'ecco del Galaxy, proprio una gaggada, a me non piace, l'ho mai usato, quindi eliminata quella, al posto di quella scheda lì è stata collegata allo stesso posto la scheda dei 100 watt. Ho capito. Ma ce la fa il trasformatore del Galaxy a pilotare tutti e due, l'apparato più l'alimentatore, più il trasformatore, più l'amplificatore? Il dialogo che mi lavasi, se no non si attaccava. E cosa c'ha l'alimentatore da trasformatore dentro? Cosa c'ha? Cosa non ve nuda dove si volte, usava lo frequenzimento, non ve nuda. C'ha 13,8 addirittura abbiamo preso, 13,8 volte è alimentata la scheda dei 100 watt. Allora, 13,8. E i watt sono esattamente 100 modulati. E dimmi un po', è il coso, i dissipatori dove li hai messi qua? Dissipatore? Soltanto, già ne fai dissipatore, se c'è la ventolina attaccata. C'è la ventolina, c'è il posto suo dove ci va la ventolina piccolina, quadrata, diretta. Quando dai alimentazione a 12,8 si accende anche la ventolina che va a raffreddare lo stadio finale. Ambulanza oggi in anticipo, vai Franco Binaio. No, la ventolina comunque rimane all'interno, tu da fuori non vedi niente. Tutto interno, la ventolina è davanti alla scheda, appunto dell'amplificato. Sì, quindi tutto interno. No, ho già fatto un bel lavoro. Ottimo, infatti, ti ho fatto i complimenti. Tutto interno, tutto nello stesso posto dove c'era la scheda, che è un pochino più piccola. La scheda, ecco, che non serve a niente, non ne ho mai usato, non mi interessa. Capito? Infatti non si, questo non si chiama Galaxy Saturn, ecco, ecco non c'è scritto. Questo è un Galaxy Saturn e dove c'è scritto Saturn c'è scritto Turbo. Comunque per leggere quell'amplificatore sicuramente c'è un bel trasformatore, caspita. Bello, è nuovo di pacca, nuovo. Non ha mai ronzato, niente, nulla, capito? Poi si poteva prendere anche l'alimentazione da 13,5, mi pare che era o 13, dal punto di aggancio del connettore dei 12 volts, però ho preferito prenderlo diretto, col cavo grosso, diretto dal trasformatore. No, può provare che sia stato già cambiato quel trasformatore, che sia stato messo potenziato già. Non so, io l'ho comprata così, però ripeto, una radio eccezionale, ma non mi ha mai creato problemi, ce l'ho già qualche anno, l'ho usata poco, questo è un esperimento così per vedere, però volendo si può portare anche a 300 watt, volendo, capito, perché si può fare un altro tipo di modifica e metterci dentro addirittura tutto lo stadio finale del B300, che non è molto grande, è solo tutto un ferro. Quando tu ne togli il circuito stampato con lo stadio finale è un po' più grande di un pacchetto di sigarette, quindi ci starebbe anche quello. Com'è l'alimentatore, il trasformatore, quello classico oppure quelli, come si chiamano, a transistor? No, è un trasformatore di quelli grandi. E quelli con l'avvolgimento, dai. E io penso il minimo sarà un 10 ampere. Ma quello che c'è dentro il garage? No, è da 15 ampere questo. E infatti il minimo sono 10, ho detto, perché se per pilotare una cosa del genere ci vuole un ampere. Avanti, Robert. No, Roberto è al telefono, vai già. Ehi, e beh, avanti il VVD, avanti che ce ne fate il VVD? Abbiamo fatto un esperimento per fare pubblicità, capito? No, me lo vendo, 500 euro. E tu è ancora in ospedale o già? E mio, sono arrivati due componenti oggi dalla Germania, adesso deve arrivare l'altro dall'Inghilterra. E quindi è convalescente ancora, dai. Rilanciamo Giovanni. Giovanni, non c'è. Ancora fischiando sta questo microfono. Metti la portante, muta. Perfetto. Va bene, gli ho cambiato il tricolore al trivel che non stava funzionando, dai, gliel'ho cambiato. Però è sempre troppo forte, devi abbassarla questa radio. Adesso abbasso, ce l'ho a 2 qua, aspetta che l'abbasso ancora, ma guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, puntella. Così va bene. Lascio così? Ok. Sì, perché prima era troppo forte e non si capiva quello che era forte. Troppo rimbombante era fra. Lasciala stare così che va bene. Io ho dovuto cambiare prima della preamplificazione, praticamente perché era andato a farsi fuotere, gliel'ho messo nuovo. Ma l'hai messo quello delle meno fantacci? Bene, ho tolto da lì, da quel circuito, non avevo altri. Che te lo stavo per dire? Tanto era 503 uno, 503 l'altro, quindi diciamo che erano uguali. Cavagalla. Ho detto, vabbè, Gianni non me lo può dare. Da te molto scende fra franco binario quando sgancio. Sì, infatti mi sembra scendi a 1. Da 1 a? Adesso sei quasi 6, ma poc'anzi eri più forte, sei arrivato a 8 con picchi a oltre 9. Non so cosa stavi smanettando prima. 747 aumenta i due segnali, Cosa già? E aumenta di due segnali 747, ne ho avuto un 4-5 io, tutti i due segnali in più mi davano, per dire da 9 a 9-10, aumenta così, ma ti aumenta anche la radio, è quello che c'è di bello, invece ci sono amplificatori che te la rovinano la radio. Ma beh, così io come ti sto arrivando a te, leggi quello che vedi nello Smith del Cobra, quanto è così? Così sei, vabbè, sarai 9, dai. No, sarai, quanto stai leggendo lì? 9? 9 passate, sei quasi 9,5. Ok, guarda, adesso in diretta te lo faccio, guarda. Adesso io sgancio, dimmi quanto leggi sul Cobra per vedere più o meno quanto aumenta, guarda. Così è sganciato, quanto leggi sul Cobra? E così sei Santiago 8, dai. Quindi va bene, considerando che quello Smitter è un po' avarogno, ma va bene. Quindi riaggancio, ecco qua, posso agganciare e sganciare anche in diretta, e va bene. Sì, bene o male, quello segnale 9.15, dai. Va bene, ok, ottimo per la truppa. Proio. Proia. Qua si è andato da 6 a 3, si è sceso, da 6 a 3, nello Smith del Galaxy. Fatelo conto, va più che bene, va bene. Si è agganciato, 3 sganciato, 3 praticamente scende perché c'ha 5 watt di pilotaggio, capito, fra. Però va bene, l'incremento c'è, ottimo con la truppa. E anche un bel c'è l'incremento. Beh, ma non ho dubbi perché li sta segnando sulla T250, io sto usando quello come riferimento perché voglio essere preciso, perché è una prova che stiamo ancora facendo, ci sono ancora delle tarature da fare, e sulla T250 della Kibot come wattimetro, che è perfetto, sta segnando modulati 100 watt pieni. Ehi, cappa, comunque buonasera a tutti. Com'è che ti sto arrivando io, Claudio, a te? Adesso, guarda lo Smitter, che poi ti aggancio il 747. Vai. Ehi, cappa, dai, guarda, te lo faccio in diretta lo stesso. Ok, adesso è agganciato. Com'è l'incremento? Vai, da 7 a 9 passate. Allora c'è. Certo che c'è, vanno benissimo, ma se tu quello lo togli e lo smonti, ne togli il case, è un pacchetto di sigarette, mi circuito stampato con i finali attaccati, non è che, capito, le metti due connettori dal pannello dietro il Galaxy, a fianco, messi bene, naturalmente in fila, una a destra, una a sinistra, nel pannello di dietro del Galaxy, e non si vede niente, c'è il 747 dentro come questo. Cappa, sì. Ehi, vabbè, è tutto... Va bene che così, se no devo fare un travagliaccio. E poi mandarlo fuori perché qua non lo fa nessuno. Avanti Gianni, buonasera. Cappa, infatti a Claudio gliel'hanno fatto fuori. Certo. A me me l'ha fatto un amico, si è impegnato lui, ha fatto tutto lui. Però mi ha fatto veramente un capolavoro, adesso lo sto tenendo sotto controllo, nel caso c'è da fare qualche ritocchino, ma non penso, comunque va bene così. Intanto saluto Franco di Sorso. Ma quindi praticamente, Claudio, state utilizzando lo stesso amplificatore, in poche parole? Sì, con Franco sì, io ce l'ho interno a 13,8 con 15 ampere di pilotaggio, lui invece ce l'ha esterno, quindi non so con quanto lo stia pilotando. Io le sto dando la taratura d'ingresso sull'amplificatore diretta, e 5 watt di ingresso, capito? Perché a parità di segnale, diciamo, d'inizio, tu sali di più rispetto a lui, lui arriva a 3 e tu arrivi a 6. Non lo so, io ti ripeto, questo, le tarature sono fatte tutte a strumentazione, perché io c'ho un video, è fatto tutto a strumentazione, non è fatto così a rosmetri esterni, tutto con strumentazione da banco, capito? Quindi io non devo toccare niente, ma ho detto solo, tienilo sotto controllo e facci sapere, dal momento in cui sta andando bene, va bene così. Avanti Gianni. A me interessa solo che mi arriva la trompetta, lo metto a posto, a bui. Il trasformatore glielo posso mettere anche esterno, non c'è problema per quello. Magari ci sta anche quello. Ecco. Quello registrato al becco, quello quale? Perché tu hai ronzato il trasformatore, non so. Questo non ho mai ronzato, questo va bene così. Avanti Breck, Massimiliano, buonasera. Cappa, buonasera. buonasera a tutti, guarda, appena acceso non sono neanche chi c'è, no. Proprio un attimino dietro il becco. Sì, quanti ho fatto entrare io, ci sono io, Gianni Doppio Room, Franco Binario, Roberto Quadrato che è al telefono, Franco di Sorso e poi ci dovrebbe essere anche Giovanni da Pratamona. È Franco California. È Franco California che non ci interessa perché sta sempre facendo prof. Ah, ok, allora saluto a tutti cordialmente, va. Buonasera a tutti. Ciao Massimiliano, buonasera. Ciao Massimiliano. Perché sei serio, frate? Cos'hai preso? Troppa acqua oggi? No, serio, perché serio? Oh, sei... non sei pimpante, lo sai, va giù già fuori freddo, quindi fa vita. Ehi, vabbè, pure io c'ho la mosca al naso, me la tolgo ancora. No, vi sono un po' così perché vi sto ascoltando con un'altra radio e siete tutti segnali bassi e perché c'è quel pomellino inserito in locale, capito? Perché c'è questo cazzo di rumore che qua. Sì, ho capito, lo vedo che offendi, vedrai tra qualche giorno non lo senti più, dai. È già troppo che mi senti, io stavo a 100 watt col Galaxy, fatti lo gonto, quindi se ci ascolti bassi è appunto perché c'hai l'attenuatore inserito per quel cazzo di rumore. Vabbè, facciamo girare il cambio per Franco Binario, a girare poi vai per Gianni e a seguire per Franco di Sorso, vai Binario. Sì, volevo sapere che tipo di disturbo c'ha il Massimiliano. Sarà come il mio, pompe di calore? Boh, non lo so, ancora non si sa qua cos'è, boh. Se pompa il calore, se non pompa il calore, boh, cosa mi gioco. So solo che questo disturbo mi sale un Santiago 8-9 e quando modulate ve lo portate dietro, quindi è, diciamo, quasi incomprensibile questo disturbo là. Avanti Gianni, doppio room. Avete parlato in due, cos'è? Ho detto, chiama, striscia la notizia, vengono con quello strumento e identificano dove il segnale. Non ti preoccupare, già lo identifico io questo fine settimana, questo rumore. Cosa, Massimiliano? Mi ho già preparato tutto questo fine settimana, come attacca questo rumore, dove scende in macchina. E risolvo un campanello, non ti preoccupare. Sicuramente c'è qualcosa che sta disturbando, è quello lì, non c'è altro da fare. Claudio, di nuovo il rosio. Ora, ho la mazza di nevare, ora è questo cazzo di cosa. E così c'è il rosio. Lo chiede a Gianni che ti ascolta più forte. Gianni, tu lo senti? Sì, ma lo sento diverso da poco fa. Questo mi sembra più il rumore di una ventola. Poco fa era proprio un'alternata. Oh, non ho già alternato da giù io. È il phone, stanno asciugando i capelli, Franco. No, sto buono. Guarda, ci metto sotto. Lampadine 13 grazie qui la serra, ma ci media, ciao, buonasera. Non lo senti il phone. Ciao, Franco Garifo. Ciao Massimo, buonasera. Mi era sentato che ero a prendere un caffè. Magari sono i tralicci lì. Sto vendendo tralicci ovvio. Sono anche condizionato ora a 1000. Qualcosa devo escogitare perché non si può così. Un pezzo di legno nella ventola, la metti lì, la si brucia. Bro, già vestica. Ancora lo sentite? Cazzo ancora non è finito. È il phone comunque, fra. No, non è phone, là, oh. Adesso no, è tornato. Sono in cuffie, cazzo, ma non è possibile. Se volevo fare un mio verbo. Non lo so, pare, no, un ventilatore sembra, sta proprio puntato sul microfono, come stai soffiando sul microfono. Aspetta che spengo e chiudo la porta. Ma è andato questa la radio, sì? Sì, benissimo. Anche adesso senti il ventilatore. Eia. Ed è questo della ventola che senti qua, di meno di poco fa. Io non direi ventola, no, non lo direi proprio. Massimiliano, com'è la situazione? Senti rumore di alternata? No, non mi dica a me, c'hai quel rumore mio sotto, figurati se sento l'alternata, cazzo, l'ho appena detto che sono con un'altra radio perché sul pulsantino al locale, se no non vi sento. Che strano. Non lo so, per me quando parli non si sente, però col bianco si sente un bel. Cosa faccio? Boh, ti posso registrare se vuoi. No, guarda a vedere che ho spento nuovamente l'alimentatore. Adesso va bene. Che cazzo? L'alimentatore che c'ho per terra dei K, hai capito? È la ventola, lo spengo e non senti niente. Ma non è un rumore, o disturba, non so se disturba l'alimentatore. Disturba la modulazione sicuramente. Ma non sembra un disturbo di radio, proprio di alternata, disturbo elettrico. Certo, sei dentro. No, così va benissimo. Non so che va bene. Se spengo l'alimentatore va bene, è normale. Ora. Sto guardando. L'ha fatto? No. Vabbè, quando lo fa proviamo avanti a spostare, a vedere. Non so, questo dipende, sempre dal mio parere, poi. Vediamo un po' se c'è. Che c'è rimasto? Roberto, sei rientrato, Roberto? Negativo, che c'è rimasto? Gianni, che c'è? Giovanni di Platamona? Nemmeno, avanti Gianni, ripeti tu, io faccio un po' di bianco, vado a bermi qualcosa. Ehi, comunque, claro, l'alimentatore, il trasformatore sicuramente, perché è un ronzio, capito? Diglielo che fa questo ronzio sottofondo. Il Galassi ce l'ha come problema, come difetto, il fatto del ronzio. O non vi la fate l'alimentatore, il trasformatore con due cose attaccate, oppure c'è qualche cosa che non va. No, non è trasformatore della radio. Allora, io ho l'alimentatore da 60 ampere più un altro da 60 ampere più il PS50. Il Galaxy è vicino ai due alimentatori, ok? Se io li tengo accesi, li entro dentro e quindi mi si porta questo ronzio perché la presa è unica. Se adesso sono spenti gli alimentatori, non c'è più il ronzio. Claudio! Oh! E adesso di tutto un colpo mi è sparito il rumore. Metti la portante muta, non parlare. No, io non ne sento il rumore di parole. Adesso non lo sta facendo. Non ce n'è adesso. Se io attacco gli alimentatori lo fa già. Non è trasformato, non stai scherzando. Cazzo, l'ho provato una settimana che fanno prove di amperaggio sul trasformatore. Assolutamente, il trasformatore da 15 ampere se lo gioca a 747, cosa? Non è quello il problema, sono gli alimentatori di linea del K e il Proxer che l'entro, capito? Adesso sono spenti e non lo fa. Prova a accenderlo come di prima, che voglio capire. Io il ronzio non lo sento neanche con... L'hai acceso? Sì, è acceso, sì. Io il ronzio non lo sento, non lo so. Io ti sto ascoltando col Galaxy, ti ascolto benissimo. No, ma io sono in cuffia anche, capito? No, non sento niente. Poi siamo davanti al Galaxy, il ronzio del trasformatore l'avrei sentito. No, è un problema di rientro. Quello che sentivate poco fa era il phon, quel rumore fortissimo del phon che erano qua in bagno vicino a dove io c'ho la cameretta, quindi era vibrante invece che la radio, però non si sente niente, già va bene, dai. Oh, provate che disturbi proprio il motore elettrico del phon, me. Infatti, le ho detto io, se da qua se ne sono andati in sala, vicino in fondo, là. Vedi, non si sente più, non lo sta più facendo. Ma già lo so che è così, l'ha fatto anche un'altra volta. Stavo parlando e l'ha rientrata, ci aveva i capelli in bagno. E mi ha detto Gojo, adesso mi ricordo con chi stavo parlando, forse con Roberto. Ma detto c'era un rumoraccio sotto, l'ho giudicato nuda io. E ho capito che era quello. Ah, io ho come si chiama? Il portatilino. Se attacco l'alimentatore per caricare la batteria del portatilino, a voi non mi sento più. Mi azzera i segnali, non azzera, mi disturba. certo che sì. Come radio lì da te, ma assimiliare lontananza va bene? Sì, radio va bene, segnale 9 più 5, non so se si è aiutato, boh, o come si è messo. Tanto,